Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Migranti a Trieste, in prefettura incontro interlocutorio su possibile sgombero del silos dove dorme chi non ha accoglienza. Quasi 800 famiglie da ieri senza reddito di cittadinanza. Qualcuno dovrà ripresentare domanda per l'assegno unico. Infortuni sul lavoro, mano schiacciata per un operaio a Prata di Pordenone, lesioni al volto per un altro a Gemona. Ieri un grande albero abbattuto in città a Udine, con un esperto il punto sulle ragioni della caduta di tante piante. Riqualificazione del quartiere San Domenico di Udine, presentato il progetto definitivo approvato ieri in giunta. Torna a Trieste lo scettro dell'imperatrice Carlotta del Messico, acquisito da CR Trieste, sarà esposto a Miramare. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Emergenza migranti a Trieste sotto la lente del tavolo convocato questa mattina in prefettura sulla situazione di degrado e di abbandono in cui vivono centinaia di persone nel silos di Porto Vecchio. All'incontro c'era anche la proprietà della struttura. L'ipotesi valutata è quella di uno sgombero e di una messa in sicurezza del silos. Il servizio. È stato un incontro interlocutorio con al tavolo, oltre al prefetto, anche la regione, il comune, la proprietà del silos, cioè Coop Alleanza 3.0 e le forze della polizia. Un incontro in cui è stata valutata anche dal punto di vista giuridico la possibilità di uno sgombero e della conseguente messa in sicurezza dell'area per impedire il ritorno di nuovi bivacchi. Al prossimo appuntamento, che si terrà la prossima settimana, sarà invitata anche la sovrintendenza, perché il silos è un bene architettonico vincolato. Dove saranno sistemati i richiedenti asilo che dormono in quell'area? Il prefetto Pietro Signoriello ha detto che il sistema di accoglienza è saturo. Non riusciamo ad esprimere nuovi centri di accoglienza e stiamo aspettando che il Ministero dell'Interno esegua i trasferimenti in altre regioni, ha specificato il prefetto. Siamo al 6 per mille della popolazione residente. Una presenza inaccettabile dal punto di vista della sicurezza e della salute pubblica, ha dichiarato l'assessore regionale per la sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti, che ha spiegato come un hotspot abbinato ad un centro di intrattenimento rappresenti uno strumento per raccogliere le persone che richiedono asilo e che possono essere rimpatriate in breve tempo nei paesi ritenuti sicuri, ha spiegato. Tra gli strumenti chiesti soprattutto dalle associazioni che lavorano con i migranti ci sarebbe anche un centro di prima accoglienza per evitare i bivacchi e gli assembramenti in piazza nel caso di uno sgombero. Il comune ha fatto sapere che sta lavorando per aumentare la capienza dell'ostello a Campo Sacro. I tempi però non sono immediati, ha specificato il prefetto. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. All'indomani della sospensione del reddito di cittadinanza per coloro che sono stati definiti gli occupabili, con l'INPS abbiamo fatto il punto per capire quante famiglie sono coinvolte in Friuli Venezia Giulia e come questa sospensione influisca anche sulla percezione di un altro sostegno al reddito, l'assegno unico per le famiglie con figli under 21. Sono 784 le famiglie in Friuli Venezia Giulia che dal 1 agosto non percepiscono più il reddito di cittadinanza. Si tratta per lo più di nuclei monoparentali, cioè persone sole, per il 64%. La provincia con l'impatto maggiore è quella di Trieste, 311 le famiglie che non percepiscono più l'assegno, a seguire Udine 269, Pordenone 106 e Gorizia 98. Lo ribadiamo, si tratta di nuclei senza minori, disabili o under 60 a carico e che abbiano percepito nel 2023 almeno 7 mensilità, cioè i cosiddetti occupabili. Se in altre realtà d'Italia la decisione ha creato forti tensioni con picchetti davanti agli uffici dell'INPS, in Friuli Venezia Giulia non si registrano particolari eventi di questo tipo. Siamo con il direttore regionale Mauro Saviano. Le chiedo qui com'è andata la comunicazione nei vostri uffici. Ma non ci sono stati eventi particolari, non ci sono state turbolenze. Noi sicuramente abbiamo dato delle disposizioni interne per accogliere tutte le persone che venivano o sarebbero venute per richiedere informazioni. Sulla stampa nazionale è stata posta la questione dell'assegno unico dedicato ai figli under 21 che non sarebbe più corrisposto automaticamente a queste famiglie, cioè a queste famiglie che non hanno più reddito di cittadinanza. È un problema questo che riguarda anche la regione Friuli Venezia Giulia? Sì, è una disposizione normativa, nel senso che le due prestazioni in realtà sono separate. L'assegno unico era pagato assieme al reddito di cittadinanza in costanza di reddito di cittadinanza. Adesso le persone dovranno ripresentare domanda per ottenere l'assegno unico universale e addirittura però da questa, diciamo, discrasia è possibile che ne prendano o ne percepiscono un importo più elevato, perché il reddito di cittadinanza andava a impattare sul valore dell'ISEE, che serve poi a calcolare l'importo dell'assegno unico universale. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Due incidenti sul lavoro si sono verificati questa mattina a Prata di Pordenone e a Gemona del Friuli. Nel primo, avvenuto poco prima delle 9, un uomo di 53 anni ha riportato uno schiacciamento a una mano. A prestare i primi soccorsi, le persone che erano sul posto, che hanno chiamato il numero unico di emergenza. La Sores ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza da Pordenone e l'elisoccorso, poi rientrato libero, attivati anche i vigili del fuoco. L'uomo è stato portato in ambulanza all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo per una lesione importante a una mano. In tarda mattinata invece a Gemona, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un uomo ha riportato una lesione al volto. Sul posto un'ambulanza e anche qui l'elisoccorso con i vigili del fuoco. L'uomo è stato portato in volo all'ospedale di Udine in condizioni piuttosto serie. Cadute dall'alto servono prevenzione, formazione e più controlli nei cantieri. Lo chiedono CGIL, CISL e UIL in seguito alle numerose cadute dall'alto verificatesi in regione nelle ultime settimane, dopo le gravi ondate di maltempo che hanno interessato la regione e che hanno causato la morte di 3 persone. I sindacati delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia si trovano a denunciare nuovamente la mancata applicazione delle più elementari norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Quanto viviamo oggi, scrivono i sindacati, presenta un carattere di eccezionalità rispetto a una situazione già di per sé drammatica e confermata dai dati nazionali dell'INAIL, dai quali emerge come nel comparto delle costruzioni almeno il 60% delle morti sia ancora causato da cadute dall'alto. Anche i sindacati raccomandano il divieto di interventi eseguiti da chi non possiede competenze adeguate e chiedono agli organi competenti e alle imprese di vigilare per limitare il più possibile gli infortuni nei cantieri. Solo nel tardo pomeriggio di ieri un grande albero abbattuto, per fortuna senza conseguenze gravi, in Viale delle Ferriere a Udine. Il vento durante queste ultime ondate di maltempo è stato molto forte, ma a rendere più fragili le grandi piante, spiega un esperto, sarebbero anche le conseguenze del cambiamento climatico. 5 anni fa in montagna la tempesta Vai ha distrutto interi boschi di abete rosso. Nelle scorse settimane in pianura il vento forte ha fatto strage di alberi, per la gran parte pioppi o piante anche secolari, in parchi e giardini. Una stima delle perdite ancora non c'è. L'assessore regionale alle risorse forestali Zanier fa sapere di danni ingenti ai pioppeti. Intanto però ci si interroga sulle cause degli schianti e le possibili conseguenze. Valentino Casolo, docente di geobotanica all'Università di Udine, spiega che al di là dell'evento straordinario ci sono altre cause, a cominciare dall'utilizzo in parchi e giardini di piante non più adatte a sopportare forti venti o aridità, anche perché spesso sono specie non autoctone come i cedri dell'Atlante, i pini domestici, spiega. Ma una concausa importante, secondo Casolo, potrebbe risiedere nell'indebolimento dovuto ai frequenti e prolungati eventi di aridità che gli alberi hanno dovuto sopportare a partire dalla grande siccità del 2003, situazione che favorisce anche gli incendi e attacchi di parassiti, fenomeni sempre collegati ai cambiamenti climatici e sempre più frequenti. Serve per il ricercatore un cambio di passo. L'invito è a ripensare la progettazione del verde pubblico e privato per renderla sostenibile ai cambiamenti climatici, ma anche al risparmio energetico. Occorre, secondo Casolo, ripensare l'utilizzo di specie autoctone, possibilmente scelte tra le popolazioni naturali più resistenti alla siccità. Ciò aiuterebbe anche la biodiversità locale, rimarca. Proprio su questo fronte gli Atenei di Udine e Trieste, in collaborazione con la Regione, stanno lavorando a un progetto per il riconoscimento degli alberi che, per il loro genotipo, sono più adatti ai futuri scenari climatici. Il faggio e il carpino bianco sono le due principali specie forestali di montagna e pianura scelte per lo studio. I genotipi allevati nei vivai forestali e riconosciuti grazie alle caratteristiche idrauliche ed energetiche saranno poi propagati dai vivai della regione per essere reintrodotti nei casi di riforestazione assistita, ma anche messi a disposizione di chi vorrà piantarli nel proprio giardino. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. A Pordenone inizieranno a novembre e dureranno circa un anno i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido di Torre. Accoglierà 60 bambini, quasi una ventina in più rispetto ai 43 ospitati attualmente dall'asilo in via Cantore, su 860 metri quadrati. L'opera godrà di un finanziamento PNRR per quasi 1,5 milioni. Il comune integrerà con 508.000 euro. Inserito nel documento unico di programmazione l'intervento di completamento relativo agli spazi esterni e all'area destinata a parcheggio, per 630.000 euro che verranno finanziati dalla Regione. Duro affondo delle opposizioni unite contro la giunta comunale di Trieste in conferenza stampa. La minoranza attacca la gestione degli appalti pubblici. Sotto i riflettori c'è la galleria di Montebello, riaperta al traffico, ma dove il cantiere è ancora aperto. Quando finiranno i lavori alla Galleria di Montebello a Trieste? Se lo chiedono le opposizioni in consiglio comunale, dal PD al Movimento 5 Stelle, passando per Punto Franco e adesso Trieste. Il tunnel, un asse viario fondamentale per la viabilità tra Piazza Foraggi e Via Francesco Salata, è stato sì riaperto al traffico la sera dell'11 luglio, con un'esultanza dei cittadini quasi da stadio, ma i lavori, che inizialmente sarebbero dovuti durare 40 giorni, dopo 14 mesi e più, non sono ancora del tutto conclusi. Il timore è che per consentirne il completamento la galleria possa essere nuovamente chiusa al traffico, così almeno sostengono le opposizioni, che riportano valutazioni di alcuni tecnici da loro interpellati. Proprio per questo al comune la minoranza chiede chiarezza sulla congruità dei lavori fin qui eseguiti, considerato che il progetto iniziale era molto diverso da quello poi effettivamente eseguito, anche per via della particolarità del territorio su cui la galleria insiste. A suo di variazioni in corso d'opera che hanno fatto crescere il costo complessivo dai 7,5 milioni di euro iniziali a oltre 8,730 milioni euro. Un aumento non legato ai rincari delle materie prime, sottolinea il centro-sinistra. Un rincaro che però a questo punto fa crescere anche la penale esigibile dal comune di Trieste, il 10% del valore dell'opera, vale a dire più di 870 milioni euro, che la minoranza chiede che siano investiti nei quartieri che più hanno subito i disagi legati la chiusura della galleria, in particolare la settima circoscrizione. La giunta comunale ha evidenti difficoltà a gestire il dossier degli appalti per i lavori pubblici e la conclusione unanime delle opposizioni. Il comune, da noi interpellato, non ha per il momento ancora replicato. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine questa mattina il punto sulla riqualificazione del quartiere di San Domenico, presentato il progetto definitivo approvato dalla giunta comunale. Cominceranno entro novembre i lavori di demolizione e ricostruzione nel quartiere udinese di San Domenico. Approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo del valore di quasi 20 milioni di euro, 73 nuovi appartamenti fra monolocali, bilocali, trilocali e quadrilocali, la maggior parte dei quali verrà affidata all'ATER, mentre 5 appartamenti saranno a disposizione della comunità Pier Giorgio per progetti di autonomia possibile destinate a persone con disabilità. Un'area del complesso a forma di C sarà destinata ai servizi comuni come il punto sanitario, il presidio pubblico di quartiere, una ciclofficina e un locale commerciale. Andrea Azzini, assessore alle politiche abitative del comune di Udine. Abbiamo sostanzialmente riportato a un mix abitativo che favorisce il numero di bilocali e trilocali, diminuendo il numero dei monolocali che erano previsti nel progetto precedente. Successivamente abbiamo anche qui cercato di intervenire sui parcheggi di Via della Faula, li abbiamo riportati a un numero indicativo di 15 parcheggi, quindi abbiamo voluto mantenere una richiesta che c'era fatta dal resto del quartiere. Terza cosa, abbiamo curato, abbiamo mantenuto l'area verde a nord del lotto su cui andiamo a intervenire da ultimo, in fase di esecutivo, andremo a cercare di migliorare ulteriormente l'allestimento verde dell'area parcheggio, della grande area parcheggio. La giunta ha anche stanziato 50.000 euro, dando anche il via alla procedura di rimborso per i residenti che si sono sobbarcate le spese di trasloco. Al momento sono 38 le famiglie che hanno presentato la documentazione completa e leggibile. Il cronoprogramma adesso prevede l'approvazione dell'esecutivo, l'avvio dei lavori entro novembre e la realizzazione entro aprile 2026. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il meteo ora, il cielo è da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, nuvoloso in montagna, le temperature delle 11 a Trieste 25 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi, a Gorizia 25 gradi, a Udine e Pordenone 24 gradi e mezzo, a Tolmezzo 19 gradi, a Tarvisio e sul Piancavallo 17, a Forni di Sopra 16 gradi e mezzo, a Sappada 15, sul Monte Zoncolan 13 gradi, sul Lussari 10 e mezzo, a Lignano e a grado 25 gradi, temperatura del mare nelle due località 26 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno al pomeriggio, sulla zona montana cielo variabile, non si esclude del tutto qualche locale rovescio. Domani, durante il corso della giornata, a più riprese saranno probabili rovesci e temporali sparsi, che interesseranno la zona montana già dal mattino, la pianura e la costa con maggiore probabilità dal pomeriggio. Il cielo sarà variabile sulla pianura, in prevalenza nuvoloso in montagna, mentre sulla costa ci sarà maggiore presenza di sole. Le piogge verso le prealpi potranno essere anche localmente intense. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, sulla zona montana vento da sud-ovest moderato in quota. Poco più di due anni fa, in piena pandemia, quattro ragazzi goriziani creavano un portale telematico che aiutava a fare il test di positività al Covid. Oggi sono diventati un'azienda informatica ad alta specializzazione che fornisce soluzioni chiavi in mano a diverse aziende italiane. Si chiamava Dove fare il tampone, il portale no profit sorto a Gorizia che in pochi mesi aveva ottenuto 250.000 contatti. I quattro ragazzi che lo avevano creato oggi sono rimasti in tre ed hanno fondato un'azienda di ingegneria informatica che ha sei dipendenti e si basa sul cloud, cioè una serie di risorse applicative e infrastrutturali presenti in internet, attraverso cui vengono forniti servizi di elaborazione dati. Alec Devetak è uno dei soci fondatori. In questi due anni abbiamo cercato di mantenere lo spirito con quale siamo partiti, ovvero la costante ricerca di migliorarci e soprattutto di imparare cose nuove. Ogni nuovo cliente è per noi una nuova sfida. Una delle nostre soddisfazioni più grandi è proprio quella di essere riusciti nella prima fase a stabilizzarci e a garantire uno stipendio regolare a tutte le persone che collaborano e lavorano con noi. Abbiamo deciso di chiamare la nostra azienda Coding Duck perché deriva da una tecnica di programmazione e di risoluzione dei problemi dove a un oggetto inanimato, in questo caso una paperella, si spiega il problema e spiegandolo, esternalizzando, si trova in modo più facile la soluzione. Stiamo lavorando con più di 50 aziende. Sicuramente il progetto più divertente su cui abbiamo lavorato è quello di Fantamici, è un'app che si basa sul famoso programma di Amici di Maria De Filippi, ma questa non è stata la richiesta tecnologicamente più difficile. Abbiamo ricevuto una commessa per una società di informatizzazione agroalimentare che hanno una montagna di dati di umidità, piante, satelliti, dati meteorologici e noi li abbiamo aiutati a gestire tutta questa grandissima mole di dati. In questo momento stiamo affrontando una nuova fase, ovvero la fase di internazionalizzazione. Stiamo entrando nei mercati tedesco e statunitense, che rappresentano per noi delle grandi sfide proprio per la concorrenzialità che caratterizza questi mercati. Savogna Disonzo, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. La Fondazione CR Trieste ha acquisito a un'asta nel Principato di Monaco lo scettro appartenuto all'imperatrice Carlotta del Messico. L'oggetto, di cui nel corso del tempo si erano perse le tracce e che era stato ricevuto in dono dall'imperatrice dal Consiglio Municipale di San Juan del Rio nel 1864, potrà così arrivare a Trieste nel Castello di Miramare, concesso incomodato al Museo Storico e Parco del Castello di Miramare per essere esposto al pubblico. L'oggetto simboleggia un periodo peculiare della storia europea alla metà dell'Ottocento, che ha visto Trieste al centro degli avvenimenti geopolitici internazionali, con connessioni anche oltreoceano fino al paese centroamericano. L'operazione consente di riportare nella sua casa storica un oggetto che, arrivato in Europa, era nella disponibilità di Leopoldo II, re del Belgio, fratello di Carlotta, che ne aveva fatto dono al barone Adrien Goffinet. Lo scettro è un gioiello d'oro 22 carati, completamente decorato in filigrana ed a fregi cesellati di fiori e foglie, lungo 34 centimetri e largo 6, adornato di diamanti, rubini e smeraldi e ha un peso complessivo di oltre 400 grammi. Annullata ieri sera a causa della pioggia la serata di apertura dell'Aquileia Film Festival dedicata ai 25 anni dal conferimento UNESCO ad Aquileia. Il festival prosegue stasera alle 21 in Piazza Capitolo ed entra nel vivo del concorso per il film più gradito al pubblico e delle serate dedicate all'archeologia con la proiezione del docufilm L'Anello di Grace di Dario Prosperini, in cui si ricostruisce la storia del Carro d'Oro, una biga etrusca su cui era raffigurato il ciclo completo della vita di Achille. A seguire la conversazione con Valentino Nizzo, direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, moderata da Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva. In chiusura la proiezione di Jurassic Cash, regia di Xavier Lefebvre, un documentario sul nuovo business dei fossili di dinosauro. Il premio Aquileia sarà consegnato venerdì. Grandi nomi per la prima edizione del Festival di Trieste Il Faro della Musica, organizzato dalla Società dei Concerti Trieste con il Comune e la collaborazione del Teatro Verdi, del Conservatorio Tartini e della Scuola di Musica 55. Si è da poco conclusa al Museo di Storia Orientale di Trieste la conferenza stampa di presentazione di un nuovo festival che trasforma Trieste nel faro della musica, la musica classica. Questo è il nome del nuovo festival che speriamo avrà tante nuove edizioni. Un festival che si caratterizza per l'altissima qualità dei musicisti che sono stati chiamati a partecipare. Inizierà il 5 settembre e terminerà il 12 in tante location della città, compresa la nostra sede RAI di Trieste. Il direttore artistico della Società dei Concerti, ente organizzatore di questo festival in collaborazione col Comune di Trieste, col Conservatorio e col Teatro Verdi, ci racconta un attimo in retroscena di questa organizzazione, di questo nuovo festival. Quindi cedo la parola al maestro Marco Secco. Grazie, un lavoro sì che sono ormai 2 anni per costruire questo festival che abbiamo portato avanti con il Comune, con il Teatro e con gli altri enti della città. È un festival a cui abbiamo subito voluto dare un imprinting importante e quindi a cui partecipano musicisti come Jordi Savall, come Maxim Vengerov, come Angela Hewitt, come Antonio Meneses e Helmut Henken, e quindi artisti che portano il loro lavoro a Trieste e che ci permettono di raccontare quindi la città tanto alla regione ma soprattutto al paese e speriamo anche a livello internazionale, quindi un festival che veramente ha la dimensione dei grandi festival europei, quindi un primo festival insomma con cui speriamo davvero di costruire un futuro rispetto ai festival e a Trieste. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono stati 20.069 gli spettatori provenienti da 70 paesi che hanno assistito alle 16 recite di The Phantom of the Opera, il musical di Andrew Lloyd Webber, prodotto da Broadway Italia per la regia di Federico Bellone, andato in scena in prima assoluta al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Rossetti a Trieste dal 4 al 16 luglio. Lo spettacolo ha segnato anche il record storico di incassi per il teatro triestino, superando 1.300.000 euro. Tra gli spettatori la metà proveniva da fuori regione, quasi 4 biglietti su 10 sono stati acquistati a Trieste, il 14% nel resto del Friuli Venezia Giulia, più di 27 su 100 in altre regioni e quasi 20 su 100 all'estero, anche in Stati Uniti, Cina, Corea, Australia, Brasile. Positive le ricadute per il turismo e l'economia della città, segnala lo Stabile, con un indotto complessivo che ha superato i 7 milioni, anche grazie al cast salito sul palco con Ramin Karimloo, tra i più stimati interpreti di musical al mondo nel ruolo del fantasma, la soprano italo-americana Amelia Milo al debutto nel ruolo di Christine e le stelle del West End come Bradley Jaden e Earl Carpenter. Ramin Karimloo tornerà a Trieste sul palcoscenico del Politeama Rossetti il 25 ottobre con From the Rehearsal Room Trieste Live. Sperimentazione e condivisione per Dobbia Film, la nuova sezione dedicata alla produzione audiovisiva targata Dobbia Lab. Il gruppo Area di Ricerca di Staranzano si rivolge a giovani aspiranti registi, sceneggiatori, filmmaker, con l'obiettivo di aiutarli a portare avanti i loro progetti, a realizzare storie, documenti e cortometraggi. In occasione dell'inaugurazione della 21esima edizione di Dobbia Arte 20, a partire dal 10 agosto, l'Associazione Culturale lancia una campagna di crowdfunding. I fondi raccolti verranno destinati all'acquisto di attrezzature professionali, ma anche per fornire una formazione adeguata in ambito audiovisivo. Informazioni sul sito. Ancora spettacoli, Mario Biondi, cantautore e crooner catanese, in concerto questa sera al Castello di Udine. Oltre alle anticipazioni del nuovo album, Mario Biondi proporrà una scaletta di tutti i suoi successi. Inizio concerto alle 21.30. Per l'estate del Teatro Verdi di Pordenone, il punk da Balera, mescolato al free jazz, degli Extra Liscio Club, in piazzetta Pescheria alle 21. Tant che il vin come il vento è il titolo della 32esima edizione di Avostanis, la rassegna estiva dei Colonos, progetto finanziato da Arlef e Regione. Il via questa sera alle 21 all'agriturismo ai Colonos di Villa Caccia di Lestizza con il Chandal Creati, il canto del creato, recital dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco di e con Moni Ovadia e le letture in friulano di Fabiano Fantini. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Corrado Spuntone, Paolo Cassano. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, Dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.